Radio 24 ha sempre dato molta importanza alla politica vera e poca al teatrino dei partiti. Continuerà a farlo da lunedì prossimo con un commentatore d'eccezione dell'attualità italiana, Stefano Folli, che porterà Il Punto, rubrica di successo del Sole 24 Ore quotidiano, a Radio 24. Andrà in onda all'interno dei giornali radio delle ore 8 e delle ore 13, dal lunedì al venerdì. Grazie a Folli, gli ascoltatori di Radio 24 avranno un'opportunità straordinaria: capire fino in fondo le grandi manovre della politica nei mesi che precedono una scadenza elettorale molto importante per il Paese. Per ragioni analoghe, la giornata di Radio 24, sempre dal lunedì al venerdì, si aprirà con le ultime notizie dall'America, che con Mario Platero permetteranno di seguire minuto per minuto le elezioni presidenziali americane del prossimo novembre. Altre novità sono l'anticipo della diretta di 24 Mattino, l'Italia si desta con Alessandro Milan, che partirà alle ore 6:30, l'appuntamento sportivo con Carlo Genta, che abbiamo chiamato tutti convocati, il raddoppio del GR Spettacoli di Marta Cagnola in onda alle ore 6:30 e alle ore 13:20. Infine, dal grande successo di due programmi storici di Radio 24, I Magnifici e Destini Incrociati, nasce un nuovo programma, I Magnifici Destini, che racconterà la musica attraverso le vicende personali dei suoi protagonisti. Buon ascolto.